Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio e bentornati a Summertime. Noi andiamo subito al 12° Festival del Teatro Nazionale di Gioia, che quest'anno ha molte novità. Sarà in 3 regioni, Lazio, Abruzzo, Molise, e a dirigerlo c'è sempre Dacia Maraini. Buon pomeriggio, Dacia. Buon pomeriggio a voi. Tante le novità quest'anno, tra le quali anche il fatto che il festival è itinerante tra Lazio, Abruzzi e Molise? E Molise, sì, perché è il parco che si estende in queste tre regioni, e quindi abbiamo Fedena, Avezzano, Celano, Civitella, Gioia dei Marsi, L'Aquila, Opi, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pescasseno, Le Pescina, Scanno, Sperone, Villetta Barrea, pensi un po'. Allora, intanto si è aperto con Viva l'Italia un suo testo, no? Sì. E poi prosegue da oggi fino al 22 settembre addirittura. Sì, sì. Al 27 settembre, quando ci sarà Massimo Ranieri. Allora andiamo, Ortucchio, cioè oggi Ortucchio, il respiro leggero d'Abruzzo, a cura di Paolo Di Paolo e Dacia Maraini, ovviamente. Di che cosa parla? Ma quelli è una raccolta di testi sull'Abruzzo, di testi di scrittori abruzzesi, da D'Annunzio, Croce, Flaiano, a scrittori come per esempio Natalia Ginzburg, che non è abruzzese ma che è stata rifugiata in Abruzzo durante la persecuzione nazista e che ha scritto delle cose bellissime sull'Abruzzo. La ballata del coraggio invece a Villetta Barrea, e la favola di Celestino V. Beh, sempre Celestino V ha affascinato tutti, l'unico papa tutti. Che rinunciò al soglio pontificio. Al potere, sì, poi pare che, insomma, da quello che si tramanda, un uomo molto coraggioso, solitario, col senso della giustizia. Certo, forse non adatto a fare il papa. Non adatto. Poi non ce n'è stato più nessuno che ha rinunciato a questo sogno. No, perché insomma, per fare il papa solo nel film di Moretti. Bisogna avere un senso così anche diplomatico. Sì, il film di Moretti a me è piaciuto molto, perché in fondo fa vedere anche le debolezze di un grande uomo di potere, no? E poi insomma con è proprio la favola. Con tutto l'affetto, la simpatia, non è un film contro, è un film che fa capire l'interno di una persona che sta in una situazione molto difficile, anche di grande inquietudine, di grande problematiche, insomma. Poi il mio coppo a Scanno con Pamela Villoresi. È bellissimo, un testo che racconta la storia di coppi vista dalla sorella, che però lo racconta pedalando. Questo lo fa Pamela Villoresi con una bravura straordinaria. Mi ha detto che ci sono venuti due muscoli da furia di pedalare, però dietro si vedono le immagini di Fausto Coppi, per cui le due cose si compenetrano, sembra di vedere lui che parla, devo dire che è una cosa molto suggestiva. Poi chiudiamo questa settimana, poi ci risentiremo per la settimana dopo. Allora, sì. Gioia dei Marsi, Il Camminante, uno spettacolo itinerante. Sì, molto bello anche quello. Noi siamo molto affezionati a questo gruppo che si chiama Tiasos, che è diretto da Sista Bramini, che loro fanno teatro in mezzo proprio alla natura, ai boschi, ai prati, e non usano né microfoni né scene e neanche luci, niente, lo fanno alla luce del sole, però devo dire che sono straordinari, bravissimi, hanno fatto delle cose molto belle, ogni anno vengono da noi e nel pomeriggio nella località di Sperone, che è un'altra zona abbandonata ma bellissima, fra Gioia Vecchio e Gioia Nuovo, e fanno questo spettacolo che è Il Camminante, cioè sarebbe il simbolico camminatore che dai tempi del Medioevo cammina lungo le strade italiane raccontando delle storie. Allora, intanto poi ci risentiremo appunto nei prossimi giorni, perché è quasi inutile dare appuntamenti che ci saranno, no, per tutto il mese. Ma io le voglio chiedere, approfitto che lei sta qui e di nuovo tornata a Summertime, grazie, ma qualche altro lavoro invece che lei sta scrivendo? No, io sto scrivendo un libro di racconti che è già scritto, perché uscirà a settembre. Quindi. E come si intitola? Si intitola L'amore rubato ed è sulla violenza contro le donne. Quindi ho voluto approfondire un tema che a me sta molto a cuore, che mi inquieta molto, perché non capisco perché un paese civile, un paese avanzato, un paese emancipato, debba avere ancora tanta violenza contro le donne. Basta aprire il giornale la mattina, lei lo sa, insomma, di tutti i giorni questo, questa continua notizie di uccisioni di donne, che spesso sono quelle che vogliono andare via, insomma, da un matrimonio sbagliato, da una famiglia che non condividono più. E purtroppo è una cosa che inquieta molto. Quindi ho scritto una serie di racconti su questo tema. Allora ringraziamo intanto Dacia Maraini, che ricordiamo sta dirigendo il 12° Festival Nazionale del Teatro di Gioia tra Lazio, Molise e Abruzzo. Quest'anno molti ospiti. Intanto si è aperto ieri e prosegue fino al 22 settembre. E grazie infinite anche per questa anticipazione, L'amore rubato, un libro di racconti che sta per uscire a settembre. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Viva l'Italia! L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore. E noi andiamo alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, perché questa sera c'è una prima nazionale, Eva contro Eva, con Pamela Villoresi, ma sono tantissimi gli appuntamenti di questa lunga kermesse estiva e con noi a Summertime c'è il direttore artistico del festival, Luca Lazzareschi. Come sta andando e quali sono gli appuntamenti che ci saranno nei prossimi giorni? Salve a tutti, sta andando bene, e stasera abbiamo questa importante prima nazionale di prosa, appunto con Pamela Villoresi, Romina Mondello, Gigi Liberti, Massimiliano Franciosa e la regia di Maurizio Panici. Eva contro Eva è un film che tutti ricordano, questa è una riduzione teatrale e questo spettacolo nel cartellone della Versiliana segue un po' un trend, insomma, che è presente nel teatro italiano di questi anni, cioè delle riduzioni teatrali dei grandi successi cinematografici. Noi abbiamo debuttato proprio in apertura il 14 luglio con Rain Man, per la regia di Saverio Marconi, che è stato appunto un grande successo cinematografico, e questa ne è stata la riduzione. Gli spettacoli della Versiliana sono moltissimi, più di 30. Luglio è passato con dei grandi successi, delle grandi presenze, parlo di Marco Paolini, di Mandarino, di Allevi, dei balletto dei Trox di Monte Carlo. Ad agosto ci sono grandi appuntamenti di musica, di prosa e di danza ancora, non so, c'è il Relie di Michele Placido, ci sarà Renzo Arbore, Vecchioni, ancora la Compagnia dell'Arancia con Gris, il teatro di Paolo Rossi, il grande jazz con Richard Galliano, la PFM, la danza moderna con la Traviata di una compagnia giovane di danza contemporanea, Artemis Danza, poi il flamenco, che è un appuntamento canonico qui per noi alla Versiliana, il tango, il teatro di narrazione con Ascanio Celestini, Bobo Rondelli e per finire il 25 agosto con il ritorno dopo moltissimi anni di Paolo Conte. Invece, venendo allo spettacolo di questa sera, Eva contro Eva, sì. Questi remake teatrali di grandi film, come vengono accolti dal pubblico? Vengono riscoperti? Oppure alle volte magari questo simboleggia che basarsi un po' sul classico è sempre una scelta sicura, piuttosto che magari esplorare testi più nuovi, di nuovi drammaturghi? Ma vengono accolti molto bene, perché nel pubblico è presente la memoria del film, quando appunto il film è così noto, così un classico, un cult, come nel caso di Eva contro Eva, come è stato nel caso di Rain Man e di altri spettacoli che gireranno nella prossima stagione, tratti da famosi film. La gente è rassicurata, il pubblico è rassicurato dal vedere in carne e ossa attori che interpretano ruoli già interpretati da grandi divi hollywoodiani, per esempio. Le drammaturgie, la drammaturgia moderna, ecco, non è che sono testi e spettacoli già rodati nella maggior parte dei casi a Broadway o a Londra, quindi è una tendenza che ci viene da oltreoceano, insomma, non è un'invenzione nostra, quindi questa è garanzia di qualità, certamente. E la drammaturgia è sempre ricavata dal film, spesso molti di questi film sono proprio derivanti da opere teatrali precedenti, quindi è un ritorno. Quindi è un ritorno, è un rincorrersi. Certo. Allora ringraziamo certo. Luca Lazzareschi, ricordiamo l'appuntamento con la Versiliana e ricordiamo che ci sono ancora tanti tantissimi spettacoli da vedere. Grazie. Grazie, grazie a voi. Eva contro Eva, l'una al tramonto, l'altra all'aurora della vita. Due donne in un conflitto reso più appassionante dal carattere eccezionale delle protagoniste. Margot, interpretata da Bette Davis, con perfetta aderenza in ogni momento e in ogni aspetto psicologico. Eva, incarnata da Anne Baxter, con spirito acuto e profondità d'arte. Eva contro Eva, abbiamo detto, questa sera alla Versiliana e noi abbiamo proprio Margot Channing in persona perché Pamela Villoresi interpreta questo ruolo in questa regia di Maurizio Panici e la tua contro Eva chi è, Pamela? Buongiorno. Buongiorno, è la bravissima Romina Mondello e devo dire abbiamo anche intorno una compagnia di primissimo ordine da Massimiliano Franciosa, Silvia Budri, insomma siamo molto contenti ma soprattutto abbiamo una scenografia tutta anni 60 e dei costumi di Lucia Mariani strepitosi, anzi abbiamo cercato in questa Margot Cenni che era il personaggio che interpretava Betty Davis al cinema di farne una cosa diversa, primo perché io con Betty Davis non ci voglio competere. Ma poi anche perché lei era cattivissima, tu come fai? Cioè tu non hai questo ruolo un po' così cattivo, no? Come attrice, io ti ho visto ultimamente all'India in un monologo bellissimo sulle donne irachene, figurati, sì. E quindi in cui eri una vittima, adesso immaginarti come carnefice mi sembra un po' particolare. No, ma guarda, in realtà non è così perché è la giovane che la fa fuori, che è una sua fan e poi piano piano ordisce per farla fuori, alla fine gli dice ritirati e lei poi si ritira davvero, quindi non è tanto carnefice. Abbiamo cercato, intanto loro hanno raccontato quella storia negli anni 60 che era la loro epoca, oggi noi parliamo degli anni 60 dal 2012, quindi qualche cambiamento anche di diversa ottica c'è per forza. Margot Cenni non è tanto cattiva quanto una sicuramente diva, sicuramente schiaccia sassi, sicuramente passa sulla vita degli altri, però abbiamo cercato di farne uno tipo alla Peggy Guggenheim, cioè una donna molto ironica, molto intelligente, molto colta, che si intende di arte contemporanea, per cui i gioielli più che alla Fifth Avenue sono comprati allo Whitney Museum, ecco, per capirsi. E si capisce anche perché, non so, il suo fidanzato così giovane di 15 anni meno, un regista di successo, la vuole sposare perché in fondo è anche tanto divertente. E quindi abbiamo fatto anche un po' uno spaccato, un po' un racconto degli anni 60 che mi sembra molto godibile, almeno a noi diverte tantissimo. Margot Channing anche nei suoi eccessi, nelle sue ubriacature è veramente divertente, spero, almeno io mi diverto, spero di divertire anche il pubblico, ma soprattutto parliamo anche di un problema che forse in America già c'era, da noi meno, che è questo arrivismo un po' a tutti i costi, che è questo nuovo tra virgolette che spesso spazza via forse anche con mezzi non proprio etici. Magari una competenza, una cultura, diciamo un duende parlando di fuoco dell'arte, insomma. Insomma, quindi si vedeva già come sarebbe andato a finire il mondo del purtroppo del cinema o lo star system. Quindi ricordiamo questo grandissimo classico questa sera alla Versiliana, poi siete in giro per l'Italia oppure fate solo questa serata? Perché questa no, è una prima nazionale. Questa serata congeliamo lo spettacolo che avrà più di 3 mesi di tournée quest'anno e poi chissà per quante stagioni, prevedo un futuro piuttosto lungo, e ridebuttiamo proprio i primi di novembre nel teatro che è coproduttore, che è il Manzoni di Pistoia. Ricordiamo allora Pamela Villoresi nel ruolo di Margot Channing, Eva contro Eva, la Versiliana, una prima nazionale questa sera. Grazie Pamela. Grazie, grazie a voi. Il pubblico, è la festa del pubblico, sappiamo quanto è difficile venire a teatro, uscire da casa, c'è la neve, c'è la pioggia, la gente esce, si prenota, poi cerca il parcheggio, una cosa complicatissima. Io vi ringrazio per essere qui, non voglio regali da voi, il più bel regalo è la vostra presenza. E allora è il caso di dire buon compleanno. Buon compleanno lo diciamo a un grandissimo attore italiano, un grandissimo comico. Come descrivere Enrico Montesano? Buon pomeriggio. Ma è buon pomeriggio, ma è facilissimo. Potete descriverlo dando i dati fisico-anagrafici oppure dicendo un amico Enrico Montesano. 45 anni, 45 anni di carriera. Molti pensano che sia la festa mia. E dice, ma che fa il compleanno tu, la festa tua? No, dico, la festa è del pubblico che ti ha seguito con affetto e con interesse, anche in maniera critica e intelligente, per tanti anni. Cosa sarebbe stato se non fosse venuto? Cioè, se non avesse fatto la fila a vedere le nostre commedie musicali, se non venisse, per esempio adesso ultimamente al Centrale Live a Roma abbiamo fatto una bellissima serata, se non ci fosse il pubblico non scatterebbe la magia del teatro, insomma. Allora, ricordiamo gli appuntamenti intanto. Oggi a Villa Adele ad Anzio e il 1° settembre al Festival di Todi. Che cosa succede in scena, Enrico Montesano? Lei che cosa fa? Un purpurì di quelli che sono stati i suoi maggiori personaggi? Io dico, venite a vederlo così vi rendete conto, perché in pochi minuti non posso raccontarvi, è difficile, sarebbe riduttivo. Ma lei qual è il personaggio che ha interpretato, che ha più nel cuore? A noi è rimasto Rugantino, lo devo dire. Quelli sono i personaggi che abbiamo fatto in teatro, nelle commedie musicali sicuramente. Però io, un personaggio che ho nella testa è sempre quello che vorrei fare, quello nuovo che mi stuzzica, no? Però io farò i miei cavalli di battaglia, li farò, nello spettacolo ci sono, sono presenti, sono aggiornati, parlano della realtà di oggi, perché sono dei personaggi vivi, attuali. Ma anche la signorina inglese Salvatore, certo, Salvatore, sì. Che sì, mi piace tutto loro. Inglese, la romantica donna inglese ha ben d'onde di parlare di tutte le cose di Roma. Torquato il pensionato parla del problema dei pensionati, e poi c'è il personaggio col quale ho cominciato 45 anni fa, che era Felice Allegria, che vuol dire in Apocalisse, e anche lui è presente. Come le vengono i personaggi? Cioè lei a un certo punto si sveglia la mattina, va in macchina, pensa eccetera, e oppure vede una scena e immagina un personaggio? Quello alle volte in una cosa, alle volte l'altra, alle volte anche proprio un momento così di, se ti viene una fantasia, una voce di dentro, come diceva quello scrittore Bradbury, cioè sento le voci nel cervello, la mattina mi alzo e comincio a scrivere quello che loro mi dicono. Quanto dura uno spettacolo? È un one man show? Quanto sta in scena? Cominciamo alle 9:30 e dura un paio d'ore, gira. Quindi è lunghissimo, lei fa molte, cioè è uno stress. Forse un'ora e tre quarti, 1:40. Però l'importante è che il pubblico non se ne accorga. Se il pubblico si accorge della lunghezza dello spettacolo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Grazie al cielo, io adesso non lo so quanto dura esattamente, però tutti mi dicono, ma è già finito? E questa è la cosa, il complimento più bello. Ecco, che cosa le piace di più dopo 45 anni di carriera? Il teatro, interprete magari di una commedia musicale storica, un one man show come questo, oppure ancora un film di quelli insomma in cui lei poi emergeva con le sue battute, con i suoi primi piani, molto allegro? A me piace recitare, perché io penso che recitare sia una professione, un mestiere che si impara. Bisogna essere portati, ma si impara, si migliora, c'è una tecnica. La recitazione, ecco, qualunque cosa, anche leggere in pubblico un testo, è bello recitare. Quello mi piace recitare, quindi dove si recita, si recita. Importante è farlo. Televisione, cinema, teatro, una piazza, una cantina, in chiesa, ovunque si possa leggere, recitare, dire, quello è importante, penso, per un attore, no? Io ricordo l'appuntamento allora, quindi ad Anzio abbiamo un buon compleanno con Enrico Montesano e poi ricordiamo sempre lo stesso spettacolo che andrà al Festival di Todi il 1° settembre. Grazie. Grazie a voi, grazie a lei. Adesso col bastone e il guanto a pennolone sono pronto per fare castoni. Attacca già chi che se ne andiamo, va. Oh Roma bella, Roma mia. E noi andiamo a 2700 metri di altezza, sì, proprio alle pale di San Martino di Castrozza, dove in un altipiano, quindi un'atmosfera un po' surreale, si recita un adattamento di un film dopo e di un romanzo prima, Il deserto dei Tartari, dall'atmosfera più che surreale. Infatti il capolavoro di Dino Buzzati viene adattato teatralmente da Maura Petto Russo, giusto? Esatto. Difficilissimo. Petto Russo, è corretto. Difficilissimo come cognome, difficilissimo anche immagino l'adattamento del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Assolutamente, un'impresa complicata, molto affascinante, devo dire, poter entrare dentro il romanzo straordinario di Buzzati e riuscire a provarne a tirarne fuori un'essenza che potesse essere poi messa nelle mani di una voce sola, di un monologo. Noi abbiamo scelto questa, la linea insomma più sospesa fra sogno e realtà, fra qualcosa che accade, qualcosa che non accade, che è molto presente anche nel testo di Buzzati, e abbiamo insomma scavato fino in fondo in questo percorso. Quindi è tutto concentrato su quello che è il tenente Drogo, lui dentro la sua ipotetica camera dove si percorrono i suoi 30 anni di vita, così in un'ora e un quarto di spettacolo. Ecco, quindi Woody Neri, esatto, interpreta il tenente Drogo, che ricordiamo è il protagonista di questa splendida pièce, ambientata ai confini dell'impero austro-ungarico, poco prima che l'impero crolli, dove si aspettano, in teoria, no, i tartari da questo deserto, che però è sempre immobile e dove tutti immaginano di vedere tutto, questo possiamo dire. Assolutamente, anche perché il deserto, anche proprio nel testo di Buzzati, in qualche modo è a che vedere, no, con la nostra immaginazione, quindi queste nebbie che ci sono sempre all'orizzonte, che ti permettono di vedere e non vedere, ti creano una serie di suggestioni e tu vedi ciò che vuoi vedere, ciò che speri di vedere, ma poi tutto al mattino, quando la nebbia si dissolve, tutto quanto svanisce. Devo dire che l'altipiano delle Pale di San Martino, dove appunto siamo questo pomeriggio, è, a parte essere stato proprio il luogo che ha ispirato Buzzati nella descrizione del suo deserto dei Tartari, è esattamente quella cosa di questa distesa bianca, di roccia bianca in cima al mondo, e c'è tra l'altro una stradina che ci raccontavano delle guide del luogo, che è stata scavata dentro la roccia arriva dal Bellunese, quindi dalla parte che era italiana all'epoca, ed era stata preparata proprio durante la Prima Guerra Mondiale, ma non fu mai utilizzata. Quindi da questa strada i nemici, esattamente come nel testo, non arriveranno mai, quindi c'è una bella analogia. Ecco, una cosa, noi sappiamo che il tenente Drogo arriva in questa fortezza, un tenente giovanissimo, no? Si incontra con questi personaggi che sembrano un po' dei fantasmi, mm-hmm, e lui chiaramente ha questa volontà di rimanere il minor tempo possibile, poi finirà per rimanerci 30 anni, perché alla fine questa fortezza entra dentro di lui e lui non riesce più ad abbandonarla. Ecco, come hai potuto strutturare nel tuo monologo questo invecchiamento del personaggio? Allora, il tempo è uno degli elementi fondamentali. Devo dire che la scansione ritmica del testo stesso prosegue citando, andando avanti, proprio elencando quello che è il tempo che passa. Quindi noi lo sentiamo dire: rimarrò 4 mesi, dopo un quarto d'ora questi 4 mesi sono diventati automaticamente 2 anni, e quindi lo spettatore si trova in un viaggio in cui non si rende conto che sta passando il tempo, ma lo vive assieme al tenente Drogo. Devo dire che in questo senso sia la regia di Carmen Giordano poi e l'interpretazione di Woody Neri hanno poi aiutato questo scalino, perché la regista ha giocato tutto su dei frame di immagini lavorati semplicemente con delle luci, lampadine, non ci sono fari o cose di questo tipo, che si accendono e si spengono e in qualche modo spostano danno il passaggio del tempo. tempo, molto semplicemente e molto efficacemente. Woody Neri, a livello interpretativo, pur rimanendo sempre lui, ha una piccola e costante trasformazione sia corporea che di voce che a noi fa arrivare questi 30 anni che passano. Quindi diciamo si è lavorato su tre piani: uno in un flusso di coscienza, che è quello che ho scritto io, che in maniera veramente continuativa passa da un tempo all'altro, e poi il lavoro registico e il lavoro interpretativo, chiaramente, che hanno dato spessore al tutto. Senti, quanto ha influito anche il film di Zurlini, proprio Il deserto dei Tartari? Ricordiamo, c'era un grandissimo Gassman, no? C'erano tutti attori importanti, Giuliano Gemma. Esatto, devo dire niente, perché per volontà sia mia che dell'attore che della regista abbiamo deciso di non vedere il film, o meglio io l'avevo visto. Di non rivederlo per non essere influenzati. Esatto. Poi l'abbiamo rivisto dopo e ci siamo insomma emozionati nel vedere quella cosa come era stata resa, però abbiamo preferito non essere influenzati dal film. Allora, il capolavoro di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, attenzione, a 2700 metri di altezza alle Pale di San Martino di Castrozza, almeno oggi abbiamo sentito l'autrice del monologo, no? Tratto dal romanzo, Maura Petto Russo. Giovedì 9 agosto, poi replicate a Castelpergine, sempre provincia di Trento, domenica 12 agosto a Forte Belvedere a Lavarone e martedì 14 agosto a Forte Strino Vermiglio in Val di Sole. Quindi ci sono varie repliche in tutta la provincia di Trento di questo grandissimo romanzo. Grazie Maura. Grazie a voi. E anche per oggi è tutto. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.